tre casi relativi al tempo di vita di un organismo culturale di genere televisivo. Il primo è quello della partita di calcio e dei suoi gol smerciati domenicalmente in una trasmissione come 90° minuto. C'è stato un lungo periodo in cui la trasmissione aveva una sua brevità e in cui il succedersi delle partite di cui si faceva cronaca sintetica era scandito con una certa intensità. Poi, gradualmente, fra partita e partita, hanno trovato posto o dosi sempre più massicce di pubblicità e di argomentazioni. L'azione di gioco si riduceva a favore dell'esito fatidico del gol. Questo gol veniva proposto da più angolazioni e interviste e giudizi critici prendevano il sopravvento. E il tempo complessivo della trasmissione si allungava. Fra partita e partita, ridotte ai gol che eventualmente vi erano segnati, l'intervallo aumentava a favore del dibattito ideologico. Se l'arbitro aveva sbagliato, se aveva già sbagliato in partite precedenti, se l'allenatore non avesse fatto meglio a sostituire il tale invece del tal'altro, se il tal giocatore sia giunto o meno in scadenza di contratto, se in tribuna c'era questo e quello, se quanto era stato detto nella settimana precedente avesse avuto influenza diretta sulla partita, se quanto era accaduto l'anno precedente, eccetera eccetera. Gli aspetti ludici e tecnici della vicenda, dalla cui somma peraltro dovrebbe risultarne appunto la sportività, gli aspetti ludici e tecnici della vicenda sono stati pian piano sacrificati sull'altare di una chiacchiera mai innocua, perché mirata a distribuire accrediti e discrediti in un sistema di rapporti che va ben oltre l'evento sportivo stesso, che in quanto tale sarebbe bello che concluso. Il secondo è quello delle trasmissioni televisive dedicate al concorso di Miss Italia. Anche qui c'è stata una dilatazione del tempo. La trasmissione originaria si è evoluta in una serie e anche qui all'oggetto che in questo caso è l'aspirante Miss, è toccato un percorso al termine del quale, da essere mera immagine che transitava l'una dopo l'altra su un palcoscenico, è toccato diventare pseudopersona o persona televisiva dotata di una storia esplicita che in un modo o nell'altro deve intersecarsi con un volto, un sorriso perenne, un corpo più e meno scoperto, un portamento e soprattutto quella disinvoltura che nello spettacolo delle merci fatte persone e delle persone fatte merci sembra essere la moneta più sonante. Sulle aspiranti Miss si indugia dunque giorni, ore, minuti, e le si sente rispondere all'intero prontuario ideologico di una psicologia alla buona in cerca affannosa di clienti. I rapporti con papà e mamma, gli studi, gli hobby, il fidanzato, il cantante preferito, le capacità culinarie. È una fatica massacrante, equamente distribuita fra i protagonisti e gli spettatori, ma alla fine occorre convenire che ne vale tutta la pena ideologica. È già oscena l'idea di un concorso in cui si mette in gioco la persona umana senza definire preventivamente i criteri selettivi. È più oscena l'idea se il concorso riguarda la donna, ovvero una parte dell'umanità storicamente seviziata da un'altra parte di umanità. Disgustosamente oscena è l'idea se viene realizzata con una potente copertura ideologica che miri a farne dimenticare la natura. Il terzo caso è quello del Festival di Sanremo. Allorché Nilla Pizzi cantava "Vola colomba, vola, diglielo, diglielo, diglielo tu", Cantanti e canzoni si avvicendavano uno dopo l'altro sul palcoscenico. Quando avevano finito si aspettava un po', arrivava il responso della giuria e la vicenda era terminata. Chi sopravviveva poteva attendere l'anno prossimo. Poi è partita l'impresa dilatatoria. Hanno cominciato a dividerli in gruppi, hanno sdoppiato gli interpreti, hanno rimpinzato il programma di ospiti, hanno moltiplicato le serate fino a creare quella che oggi è la settimana di Sanremo. Un testo sterminato dalle 9 di sera fino a ore piccole che preferisco impiegare diversamente, al cui confronto, diciamo, la ricerca del tempo perduto di Proust sembra una poesia di Ungaretti in un momento di particolare tirchieria verbale. Tocca alla tal cantante ed ecco che sul megaschermo di sfondo parte un abstract delle sue apparizioni precedenti, la si contestualizza in un repertorio di gesti e situazioni che soprattutto devono servire a certificarne il successo. Il pre-canzone diventa un obbligo morale della collettività, gli si appiccica addosso una storia, e così facendo si bada alla consecutività delle categorizzazioni a venire. È la camicia di forza che spetta al personaggio, la sua costituzione all'interno di quel quadro di valori che garantiscono l'ordine sociale, nonché la funzionalità dei suoi più e meno consapevoli paladini. Lo spettacolo prende tempo e specula più che può sulla miseria dei propri ingredienti, che poi sono sempre quelli: i gol, le ragazze, le canzoni, oggetti dalla perduta innocenza. I gol diventano l'esito di travagliate congiure, i poteri forti del nord contro il sud, il potentato degli arbitri, la creazione ad arte di un clima. È ancora un pallone che supera la linea bianca della porta ed entra nella sineddotica rete, ma è ormai un pallone carico di teoria su come va il mondo, sulle gerarchie sociali, su chi castiga e su chi è castigato. Le ragazze devono arrotondare una curva qua e smussare un angolino troppo acuto là, recitando il catechismo di Dio, patria e famiglia, senza dimenticare il breviario del rito di attualità. Sospetti di Combin, vasta letteratura sulle raccomandazioni, qualche allusione ad un'eventuale denuncia per molestie. Estendendo la loro entità al contesto, vengono coinvolti rapporti di causa ed effetto che un tempo non avevano diritto ad entrare né nel loro particolare né nell'immaginario generale. L'umanizzazione televisiva ha i suoi costi. Quel che prima era più o meno casuale o giusto e sacrosanto in sé per sé diventa determinazione di trame oscure, spesso sporche, marchingegni intelligenti. Le canzoni non sgorgano più da un cuore spacciato per puro e artisticamente disinteressato, ma sono orecchiabili per calcolo, ammiccano a segmenti di pubblico o addirittura cercano il consenso della critica, ovvero di chi detiene un potere di parola pubblica nei loro confronti. Si può perfino discutere su quello che un tempo era il massimo dei tabù, cioè sull'odor di plagio che può accompagnarne qualcuna. Se ne può perfino enfatizzare una posticcia analisi tecnica, mettere in evidenza l'intervento di un dato strumento musicale, così come di quel gol si può dire che è stato segnato colpendo la palla con l'esterno del piede destro, e così come di una ragazza si può dire che ha corretto un lieve difetto di andatura con speciali sedute fisioterapeutiche o, meraviglia delle meraviglie della modernità, magari con un'operazione di ortodonzia. Fa notare l'antropologo Clifford Geertz in Antropologia interpretativa che nell'analisi contemporanea del comportamento sociale hanno preso piede tre modelli. Quello del gioco, quello della rappresentazione teatrale e quello del testo. La signora che sta in coda al supermercato con il carrello stracolmo occhieggia anche chi le sta dietro. Se constata che ha in mano, che so, soltanto un pacchetto di caffè, può decidere di invitarlo a superarla nella fila. Costui può approfittarne o può anche rifiutare cortesemente il favore propostogli. In entrambi i casi avvengono scambi linguistici ed espressivi del tipo grazie. Grazie, ma non si preoccupi, non ho alcuna fretta, molto gentile, eccetera, eccetera. Dal punto di vista del modello analitico del gioco, il tutto sarà considerato come mosse contro mosse. Dal punto di vista del modello drammaturgico, il tutto sarà considerato in termini di attori, di pubblico, di battute, di una sorta di duello interattivo, no? Dal punto di vista del modello del testo, il tutto sarà considerato in termini di parole e di relative glosse corporali. Qualsiasi sia il modello analitico utilizzato, tuttavia, il giochino, la scena o il racconto non possono durare in eterno. Urge, prima o poi, urge la cassa e la pazienza di chi sta dietro ha un limite. Sarebbe auspicabile che il modello della coda al supermercato valesse per gli organismi culturali di genere televisivo. In tema di coriacea applicazione del modello del complotto alla storia, Geertz riferisce di un leggendario episodio concernente Clemens Wenzel Lothar Metternich Winneburg, Metternich per i pochi amici, l'austriaco astuto e ferocemente conservatore, ministro degli esteri prima e cancelliere poi nella prima metà dell'Ottocento. Metternich partecipava dunque ad un ballo reale, allorché un fido collaboratore venne a bisbigliargli all'orecchio che era giunta notizia della morte dello zar di tutte le Russie. Mi domando, sembra che abbia mormorato, mi domando quale ragione possa aver avuto.